io ce l'ho parlo prima di lui, me l'ha capito. Silenzio la vecchia! Si è appena... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ritornerei, lo so, ritornerei. Dell'Utri tornerà in Italia. Quando tu sarai con me. Tanto non è che c'è tanto da preparare, devi fare una borsa e te ne vai. Ci metti due libri e basta. Tutte le cose che tu non volevi. Forse la settimana prossima. Intorno a te. Ha pensato a cosa si porterebbe in carcere, per esempio? Porterei una banana. Perché? Sì, perché mi piacciono le banane. Ma sì, vabbè, sì. Quella però la può prendere in carcere direttamente, non è che se la no, perché poi lì ti fanno i controlli, quindi se mi fanno entrare. L'altra volta quando ci sono andato ho portato la Divina Commedia, ma adesso me la sono letta tutta, basta. Quel giorno riderei. È finita, caro Parenzo, io ce l'ho messa tutta. È finita. Bravo. Per fortuna. Per fortuna. Lasciarmi più. Psicologicamente è una vita che sono diciamo preparato psicologicamente. Pronto al carcere praticamente. Ma sì, che devi fare? Lo so. Ti ammazzi, detto, nella vita si affronta tutto. Armi in pugno, direi anche, aggiungerei io. Armi in se pugno. Ci sono con le armi, se non ci sono si affronta senza. Quello che capita, quello che si può fare si fa. Volano gli anni, guardi, 7 anni, guardi, è l'occasione per studiare, per leggere. Io amo per esempio l'ebraico, non sono mai riuscito a studiarlo. Pensi lei, quando uno mai si metterà a studiare l'ebraico, se non è in carcere è costretto, perché non ha niente da fare. Con la tua libertà. Ed è per questo. Siamo qui, 800 24 00 24, il numero magico per collegarvi con la zanzara. Caro Parenzo, il collegamento dallo studio di Roma. Abbiamo iniziato. Eccoci. Con le parole più volte espresse da Marcello Dell'Utri. Oggi il sì quasi definitivo, direi quasi definitivo, all'estradizione. Manca solo la firma del Presidente della Repubblica Libanese. Mi scende un velo di tristezza. Mi scende un velo di tristezza. Però ti voglio far ascoltare una cosa. Parli pur sempre di una persona condannata. Sì, ma io me ne fotto. Ma scusa, ma me ne fotto. Ho capito, me ne fotto. Però potrò fottermelo o no. Sarò padrone di fottermelo o no. Oppure devo appassionarmi della condanna definitiva di Dell'Utri. Appassionarti, no, ma addirittura. Allora, ti dico una cosa. La lacrima. Ti dico, no, lacrima. Non esageriamo, lacrima. Però oggi è una giornata veramente triste. Ma è triste. C'è una persona che è una giornata. Giornata veramente triste. Comunque alla fine, oh, mica è mio fratello, diciamo, no? Come si dice dalle nostre parti? Ma che è mio fratello? No, però. Cala. Scusa Marcello, scusa. Allora, poi dicono di noi, fuori onda Airaudo, fuori onda di Airaudo. I signori che cos'era? La 3 il programma? Non mi ricordo, non si sono fatti problemi, come non ce ne facciamo noi, per carità, a lasciare un microfono aperto. Però è un fuori onda preciso, quindi sì. È uguale, lasci il microfono aperto, o lo cancelli o lo mandi in onda. Io l'avrei mandato in onda, uguale, identico. Cioè, è quasi uguale, cioè, certo non è architettata, o forse sì, non lo sappiamo. Hanno lasciato un microfono e il signor Airaudo, ex sindacalista, oggi deputato di SEL, dice questo per esempio di Renzi, poi anche di Vendola. Lui è spregiudicatissimo, cioè io non gli girerei mai le spalle, non gli darei mai il portafoglio, nulla di nulla. Lui è un democristiano digitale, si muove su un frame, ha la capacità di cogliere l'attimo, è velocissimo, ma è quasi solo quello, è velocissimo. Così come la descrive, è un predatore. Sì, io penso che lo sia. Infatti la frase che stavo per dirti è terribile, cioè un delinquente politico. Io penso questo. è significativa la frase che stavo per dirti. Beh, sì, però. E che non voleva dire, è delinquente politico. Ma voglio dire, uno deve anche però usare. Questo non è nuovo, cioè Airaudo si sa che è molto critico nei confronti del governo. Ho di capito, Renzi. Ha detto delinquente politico fuori onda. Ma però, beh, senti cosa ha detto di Vendola. Ecco, quello forse è più interessante. Vendola e l'omosessualità. Nella telefonata c'è un elemento tipico di Nicky per crearsi il rapporto e che è anche tipico della sua scelta omosessuale, della sua condizione. Lui cercava davvero di aggraziarsi di Archilà, era assolutamente sì, però non la captatio benevolenza. Sì, è assolutamente questo, solo che lui pensava che quello era quello buono, perché era quello che gli consentiva di parlare a riga. Nuove zone da colpire. Vabbè, alla fine chi se ne frega del fuori onda di Airaudo. Il grande scontro di oggi, mentre abbiamo un ospite già pronto ai nostri microfoni, grande ritorno alla Zanzara, caro Parenzo, il grande scontro di oggi è addirittura tra Beppe Grillo e Francesca Pascale, a proposito del signor Dudu. Che ha esagerato. Ma Grillo è giorni che va dicendo questa cosa qua, vivisezione ma solo per Dudu. Questo qui è diventato fuori di testa, va con il cane questo cazzo di Dudu, ma Dudu deve essere affidato alla vivisezione, lui quel cane lì e basta. Io ce l'ho un cagnetto così, c'è la mia moglie, li detesto quei cagnetti, perché? Perché? Perché quelli, i proprietari di questi cagnetti in effetti non amano gli animali, non amano i cani, amano il proprio cane e detestano gli altri. Bene, siamo qui con Antonio Martino, Forza Italia. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Professor Martino, grazie per avermi invitato di nuovo. Come sta? Compatibilmente. Compatibilmente con che cosa? Con l'età, no? Mai specificare. Mai specificare. Certo, lasciamo. Sempre sigaretta in bocca, professore? Cosa? Sempre sigaretta in bocca? Per ora l'ho appena spenta, veramente. E qual è? La ventesima della giornata, 25? Io ho fumato 255.000, quasi 256.000 sigarette, ma non nell'ultimo anno, se no avrei un po' di raucedine. Beh, sì, forse ho anche ho impiegato 54 anni per fumarle. Sì, lo so. Ma lo quanto so. Ha speso in fumo? Perché beh, un sacco di soldi ha speso in fumo. Va bene, no, è la sigaretta. È... Ha mai fatto il conto di quanti soldi ha speso per le sigarette? Gli aveva un coccolone, se no. Spendendoli per le sigarette li ho spesi bene, perché la sigaretta non mi ha mai abbandonato, è stata con me nei momenti di ansia, sottolineati i momenti di soddisfazione, di gioia, ha riempito i momenti di noia. La sigaretta dà fastidio solo ai crociati dell'antifumo, al mio... Beh. Ex collega professor Girolamo Sicchia. Sì. Qualcuno dice che la legge contro il fumo è stata una delle poche cose buone dei governi Berlusconi. Pensi un po'. Io la trovo una delle cose più deplorevoli che sia mai stata approvata. Ha ragione, bravo. Ma come ha ragione? Ma che ha vuol ragione, dire? Per forza, ha ragione. Ma no, ma ormai si entra nei ristoranti. È liberale, ma ormai liberale, si entra nei ristoranti e si sta da Dio. Male vi fo. Ma ho capito, professore, senta. Ma chi fate male rompendo le. I marroni. Però ho capito, io entro nel ristorante. Le pale. Io adesso entro nel ristorante e respiro un'aria meravigliosa, non c'è più quello accanto sì, mentre mangi. Per puzzo della cucina. Vabbè, ho capito quello, però. Non è voi che obiettate al fumo passivo, non andate mai in chiesa, perché quando se no, quando c'è l'incenso, quello è fumo passivo. Vabbè, ma non è la stessa cosa, però, l'incenso e il tabacco. È il fumo passivo, il fumo dell'incenso, del tabacco, sempre fumo passivo. Detto dal grande anticlericale Martino, bisogna inchinarsi di fronte no, a questo aforisma. Beh, insomma, un po', vagamente. Insomma, a proposito di Papa, ma questo Papa Bergoglio, ma non è un po' clownesco nelle sue, come dire, esternazioni? Non sembra un po'. Guardi, io sono l'ultima persona a cui lei possa chiedere perché? Un parere sul Papa, perché non sono, diciamo così, molto addentro alle cose vaticane, certo. Alle questioni vaticane. Questo è un Papa che non ho ancora incontrato personalmente, mentre ho incontrato il suo predecessore, il signor predecessore Ratzinger. Del suo predecessore. Sì. Senta, però torniamo invece alle cose politiche più strette. La questione del complotto. Secondo lei c'è stato un complotto per buttare giù Berlusconi, sì o no? Subito, glielo chiedo direttamente. Io, per la verità, il sospetto lo avevo anche prima che venisse fuori la notizia di quello che dice l'ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti. Sì. Perché improvvisamente lo spread, cioè la differenza fra i tassi di interesse degli italiani e quelle del Bund tedesco, aumentò sì, con grande rapidità, eh, e questo in concomitanza di massicce vendite di titoli di debito pubblico, sì, italiano da parte di banche francesi, tedesche e poi anche americane. Dunque, secondo lei ci fu una specie di trama ordita dalle cancellerie? Potrei dire che è verosimile. Io non credo alla teoria delle cospirazioni, però credo alle cospirazioni quando le vedo. E Napolitano che ruolo ebbe secondo lei? Ma io mi auguro che quello che gli è stato imputato sia falso, anche perché il presidente Napolitano in passato avevo degli ottimi rapporti. E oggi? Sono alcuni anni che non l'ho più sentito, non l'ho più neanche visto. Va bene, andiamo col traffico. Poi le chiedo se Forza Italia è diventato il partito degli animali. Qui ci sono animalisti scatenati. Martino, non è un po' di depressione a pensare che... vivisezionato più volte, ma col mio consenso naturalmente, sì, non è che abbia questa... così prevenzione nei confronti della vivisezione. Oh, la vivisezione, ecco, salva la vita. Il chirurgo che ti asporta un tumore, bravo, e ha successo, ti salva la vita. Bravo, dunque anche la vivisezione nei confronti degli animali in alcuni casi salva la vita, perché fa... No, ma la vivisezione nei confronti degli animali da laboratorio salva vite umane. Appunto. Questo è un fatto e può essere spiacevole, eh, può spiacere a coloro i quali preferiscono gli animali agli esseri umani, ma non agli esseri umani che verranno poi salvati grazie alle scoperte ottenute con la vivisezione. Ma non le fa un po' tristezza questa Forza Italia che è diventata il partito degli animali? Berlusconi organizza convegni, la Brambilla, questo Dudù portato così come una sorta di icona. Io non conosco neanche Dudù, la verità, ne ho sentito parlare. Ho una nipotina che vorrebbe tanto un cane e sono sicuro che un cane piccolo e bianco come quello le piacerebbe. Da Martino a Dudù siamo arrivati, professore. Siamo passati da Martino a Dudù. Io le confesso una cosa, io contro il mio volere, essendo in minoranza a casa mia, perché due figlie e moglie sono 3-1, accettai di avere un cane. Questo cane, quando seppe che ero diventato ministro degli esteri nel 94, morì di vergogna. Perché? E non lo so, venne folgorato, un male inspiegabile. Un cane in perfetta salute fino a poco tempo prima, appena sette. Boom, secco. Che ho detto, io non è casa sua, non voglio più dire, paffa, e morì. Secco, vabbè. Io avevo un grande stabile. Dudù, ma non dovevamo vederci più, Dudù. Allora ragazzi, fate tutto quello che volete sul complotto, la commissione d'inchiesta no però. Vi prego, la commissione d'inchiesta, non l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, va bene tutto, le discussioni, i giornali, poi tutto si placherà, no, alla fine. I dibattiti, quelli che intervengono, c'è stato, non c'è, ma la commissione d'inchiesta no, come vuole Brunetta, perché uno si deve perdere tempo in Parlamento, ci sono tante cose da fare volendo, ma la commissione d'inchiesta, chi è che dice Berlusconi, chi è che lo dice? Sentiamo. Io l'ho sempre avuto chiaro e denuncio questi fatti da allora. Sì. E adesso le dico... voglio andare fino in fondo. Ecco. Sì, ma non con la commissione d'inchiesta. Fino in fondo con altri mezzi. Professore, mi aiuti lei? Le commissioni d'inchiesta, guardi, basta. Le commissioni d'inchiesta non servono in genere a niente. Ecco, appunto. Tranne che ai membri della commissione d'inchiesta. Appunto. Ma se uno vuole essere sicuro che la commissione d'inchiesta non arriva da nessuna parte, deve essere bicamerale. Ah, in quel caso proprio in quel bicamerale è sicuro che non arriverà a nessuna conclusione. E vabbè, è così. Ma che gli passa in testa al cavaliere? Glielo dica lei però. Vabbè, ma è giustamente. Il cavaliere dovrebbe ricordare il destino che ebbero la commissione d'inchiesta Mitrocchi, nella commissione d'inchiesta sì, non mi ricordo più quale altro, eccetera. Le commissioni d'inchiesta non servono assolutamente a niente, tranne che ai loro membri che ottengono qualche indennità in più, credo, partecipando. Ma sì. Adesso glielo ricordiamo noi. Senta, ma se Grillo vince, che succede, professor Martino? Lei che opinione ha di questo istrione, di questo mattoide? Guardi, io non conosco Beppe Grillo, lo conoscevo vagamente nella sua precedente incarnazione come un comico di successo. E credo che avrà un ottimo risultato elettorale dovuto al fatto che il primo partito italiano sarà l'astensionismo. E vabbè, quello non c'è. Noi liberali non abbiamo problemi su questo. Meno no, da questo punto di vista, noi liberali mai, onestamente. Sì, anche se la gente non va a votare, chi se ne frega. Cioè, non è quello. Sono affari loro. Certo. Il diritto di non votare deve essere tutelato come quello di votare. Certo, ma assolutamente. Questo, certo. Senta, ma intorno, ma lei lo considera un pericoloso, un elemento pericoloso per la democrazia, Grillo? Cioè, Grillo al potere, cosa potrebbe accadere? Guardi, in genere quando arriva in politica un outsider, tutti gli altri lo guardano con sospetto e cercano di dipingerlo come una sorta di demonio. È accaduto ai leghisti, quando arrivò la Lega erano convinti sono arrivati i barbari, eccetera. E invece? Quando entrò in politica Berlusconi, lei ricorderà la demonizzazione sistematica che venne operata nei nostri confronti. E poi c'è stato altri. Insomma, ora l'ultimo new entry, come si direbbe, è Grillo. Grillo. E io onestamente non vedo questo grande pericolo per la democrazia. Vabbè, c'è una cosa sono che le piace. Stato colpito dalla qualità degli argomenti che usa, per la verità. Anche perché una volta disse che bisognava nazionalizzare le banche per ridurre il disavanzo. Sì, sì. Se uno le nazionalizza, rimborsa gli azionisti del fatto che gli ha portato via. Ma è un conservatore Grillo da questo punto. E allora in questo caso spende di più. Se invece le ruba, cioè si appropria delle banche derubando gli azionisti, allora sì, il deficit può diminuire, ma non mi sembra un metodo di politica economica. Senta, ma professore, perché lei va così poco in Parlamento? Solo 18% di presenze, mi segnalano, alle votazioni. Perché è molto dura, guardi. Io, cioè, in che se senso? Lei vuole comprendere il mio punto di vista, mi faccia sapere quando è disponibile, io la porto a vedere i lavori dell'Aula. Cioè, se lei non viene curato dalla sua passione per la democrazia vedendo i lavori dell'Aula, vuol dire che lei la sua passione per la democrazia è a prova di bomba. Cioè, nel senso che se io vado in Parlamento e vedo i lavori... In questo paese c'è solo una cosa che funziona con una precisione assolutamente cronometrica. Qual è? Ogni legislatura è peggiore della precedente. Da che punto... è la mia sesta legislatura. Ma da che punto di vista? Dal punto di vista della qualità media dei parlamentari. Cioè, proprio siamo parlamentari ignoranti. Ma no, fossero solo ignoranti, tutti siamo ignoranti. E invece che c'è? No, e c'è di tutto e di più. E devo dire che le critiche che vengono rivolte a volte ai parlamentari del Movimento 5 Stelle, che sono anche fondate, hanno delle notevoli eccezioni. Io ho conosciuto... deputati del Movimento 5 Stelle che sono persone assolutamente... Per cui lei non ci va perché le fa schifo di andarci, diciamo la verità. No, perché se, intanto io posso parlare in aula soltanto se me lo chiede il mio capogruppo, perché se voglio parlare senza che me lo abbia chiesto il mio capogruppo mi danno un minuto di tempo. In un minuto di tempo io posso alzarmi, biascicare qualcosa e tornare a sedermi nell'indifferenza generale. Ho capito, ma qual è il motivo? Se tutti facessero così, il motivo per cui lei non ci va, qual è fondamentalmente? Perché, perché ci vada o non ci vada, è inutile, non è uguale. Non succede assolutamente niente, perché il PD ha la maggioranza assoluta. E vabbè, ho capito, però. Nessuna votazione verrà mai decisa per un voto, per il mio voto. Sì. Non posso intervenire nel dibattito. Sì. Le persone che frequentano la Camera non mi stanno tutte particolarmente simpatiche, quindi ci vado. Ma non si sente un po', non si sente un po' di rubare lo stipendio? No, guardi, io sono in Parlamento da 6 legislature, la mia sesta legislatura. Sì, sì. Io se non avessi fatto il politico avrei guadagnato certamente di più. Io guadagnavo di più prima di entrare in politica, perché qui ci ha perso con la politica. Con la politica ci ha perso. E presi della facoltà di scienze politiche della LUIS. Ma è anche vero che essendo un libero di fare quello che volevo, venivo invitato, mi pagavano per andare a parlare. Avrebbe, con la politica ci ha perso, diciamo, si può dire che ci ha perso con la politica. No, io non ci ho guadagnato, non ho avuto bisogno di fare politica, non ho bisogno di continuare a fare politica. Vabbè, ormai. E questo tipo di attività parlamentare non è esaltante. Senta, dell'Utri per... non ci crede, la porta... No, no, ci credo, ci credo assolutamente. Dell'Utri è un perseguitato in 30 secondi, Martino, scusi, 30 guardi, secondi... metà paese del Parlamento. Civile o incivile di questo mondo si è mai configurato come reato il concorso esterno ad associazione a delinquere. Come liberale ritengo che non esista un crimine senza una vittima. Il reato presuppone è una cosa incivile di una vittima, di un però danneggiato. Ormai lo è strada, no? Vuol dire il danneggiato è lo Stato, perché allora tutto quello che dice lo Stato che il reato no. Programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, no, da chiudere subito, guardi, da chiudere. Ah. nel mio spazio sotto il salice. Allora, io vorrei farti riascoltare, però, il grande scontro della giornata, caro Parenzo, quello tra Grillo e Francesca Pascale. Sì. Francesca Pascale, perché Grillo, però, sono giorni, me ne siete accorti solo adesso, cari amici, è da giorni che Grillo insiste su questa cosa, su Dudu e la vivisezione. Lo dice un po' per scherzo, un po' no, vuole pigliare per il culo Dudu, vuole attaccare Dudu, non c'è niente di strano. La Pascale l'ha preso sul serio, dai, amici miei, sentiamo un Grillo su Dudu, dai. Questo qui è diventato fuori di testa, va a contare questo cazzo di Dudu, ma Dudu deve essere affidato alla vivisezione, lui, quel cane lì è basta. Io ce l'ho un cagnetto così, c'è la mia moglie, li detesto quei cagnetti, perché quelli, i proprietari di questi cagnetti, in effetti non amano gli animali, non amano i cani, amano il proprio cane e detestano gli altri. Questo è l'ultimo, poi ce ne sono altri, ce ne sono altri da giorni. Per esempio quando manda a fanculo Berlusconi e Dudu. Ma va a fanculo te, Dudu! Ha perso il treno, è vecchio, è Tutankhamon, è messo lì, è mummificato, con tre dita di Fard, va lì in tutti i programmini a fare il simpatico con quel cazzo di Dudu che bisognava darlo alla vivisezione. Ma vaffanculo te, Dudu, non alla vivisezione, che poi ecco il titolo del TG2, Grillo a favore della vivisezione, vuole io sono solo a favore della vivisezione per Dudu, solo per lui, allora basta, per gli altri no. Ma dai, su, è una battuta, una provocazione. Accanito, Ma non c'è manco bisogno di rispondere, dai, con la Pascale che dice no, però, sai, per lui ammazzare non è un reato, ma però, dai, sai, su. Se tu fossi proprietario di animali, vabbè, io in questi giorni ne ho incontrati ma che molti, c'entra? E trattassero così il tuo povero, la tua povera bestiolina, a me magari sta questa fissazione per gli animali io non la sopporto. C'è gente che considera gli animali più importanti delle persone, no, più importanti degli esseri umani. Questa cosa è insopportabile, questa cosa qua è francamente insopportabile. Io sono a favore di tutti gli esperimenti possibili sugli animali. Vabbè, ovviamente quando portano a dei risultati, tutti gli esperimenti possibili. Dai, su, non diciamo stupidaggini. Oh, il nostro amico Magdi Allam, Magdi Cristiano Allam, il quale sostiene che la società finisce se non c'è la famiglia naturale. Il signor Magdi Cristiano Allam. Noi abbiamo bisogno di rigenerare la vita, perché diversamente la società finisce, Marco. Cioè, se non facciamo figli, la società finisce con la società, no, ma io non finisce vedo anche la nostra civiltà. Ok, ma non vedo il nesso, io non riesco a vedere il nesso. Il nesso è questo, che se tu dici che alla base della società, alla base della costruzione sociale, non c'è la famiglia naturale, ma c'è l'orientamento sessuale. Ma questo non lo neghi, dove lo neghi dicendo che c'è un orientamento... Signor Allam, che dice se equipariamo i gay agli etero, allora sovvertiamo l'ordine naturale della società. Se noi diciamo che l'essere eterosessuali, bisessuali, omosessuali, lesbiche, transessuali, intersessuali devono corrispondere a pari diritti sul piano del matrimonio e delle adozioni dei figli, noi sovvertiamo quello che è stato tradizionalmente, ma per ragioni di Dio. Senti la rubrichina che si sono inventati su... Ah no, te la faccio ascoltare dopo. La rubrichina? Titoli, TG3, sì, dopo sì, te la faccio ascoltare. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Non ci sarà una manovra correttiva, assicura Renzi. Dopo i dati negativi su PIL, resto ottimista, ma oggi l'export segna un meno 0,8%. Via libera del Consiglio dei Ministri alla vendita di quote delle Poste e dell'ENAV. Il controllo delle società resterà comunque allo Stato. Il governo libanese decide l'estradizione di Marcello Dell'Utri, l'ex senatore di Forza Italia, sarà in Italia giovedì prossimo. Scaiola risponde per 6 ore alle domande dei magistrati nel carcere di Regina Coeli. Interrogatorio secretato, arrestati 2 agenti, forse collegati al caso. Cantone sull'Expo chiede poteri speciali e dice non vado in gita a Milano. Poi critica la legge anticorruzione, uno spot nato dall'emergenza. In Turchia ancora 18 minatori imprigionati sottoterra a Soma. La polizia spara lacrimogeni per disperdere la folla davanti alla miniera. Domani giornata mondiale contro l'omofobia. I video degli studenti fatti a scuola. Napolitano promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e Rom, guarda avanti. Che c'entrano i Rom? Sali metropolitana, occhio sempre al tuo portafoglio. Gente di colore si aggira sul metro. Se prendi la linea gialla, il rischio che i cinesi siano a bordo è un rischio molto concreto. Nella Milano della Madonina, elimina il cinese, rimandalo nel suo paese. Sulla linea gialla di Milano devono esserci soltanto Lombard. Figlia della libertà, fuori dalle balle, senza dubbi né ripensamenti. La nuova rubrica di Radio Padania è questa. Senti, stupendo. Sbarcare informati, senti. C'è del genio però, eh. Benvenuti a Sbarcare Informati, il servizio di comunicazione dedicato ai trafficanti di esseri umani e a tutti coloro che siano interessati a entrare clandestinamente in Italia. I signori scafisti che intendano accedere alle acque territoriali italiane potranno contare sulla collaborazione delle unità navali della Marina Militare. Le autorità saranno comprensive con loro, garantendo un soggiorno breve e non impegnativo presso le strutture detentive dello Stato. I gentili clandestini invece saranno prelevati direttamente dai natanti su cui viaggiano e trasportati a bordo delle imbarcazioni della Marina sulla terraferma. I cortesi ospiti saranno in breve tempo trasferiti a piccoli gruppi in strutture alberghiere dislocate su tutto il territorio nazionale, dotate di ogni comfort con servizio all'inclusive, grazie a un coupon giornaliero del valore di 30 euro più IVA a persona per un minimo di oltre 1000 euro ogni mese, gentilmente offerto dai contribuenti italiani. In omaggio riceveranno inoltre una ricarica telefonica del valore di 15 euro più un contributo quotidiano per le piccole spese. È bene precisare che chi preferisse allontanarsi spontaneamente, facendo perdere le proprie tracce, sarà libero di farlo in qualunque momento e senza contestazione alcuna da parte dell'autorità italiana. Grazie per la cortese attenzione e a presto. Servi di Roma fuori! Senza dubbi né. Cos'è il razzismo questo? No, Parenzo, è immondizia. Cos'è? È immondizia pure. Ma perché immondizia? Chi l'ha fatto è immondizia proprio. Ma immondizia che specula sui morti che ci sono stati pochi giorni fa, peraltro a Lampedusa. Quindi è pura, pura immondizia, pagata peraltro coi soldi del finanziamento pubblico. Ma che immondizia, ma falla finita. Pagato peraltro col contribuente pubblico. Ti sarei mica, ti sarei mica messo così, ti sarei no, mica. Però mi fa schifo. Mi fa schifo. Sarei stato mica proprio toccato da quelle immagini di clandestini in fondo al mare. Non permettere al tiranno di accecarti. Ma mi sei rimasto toccato? Ma toccato, ma parliamo di persone che sono morte. Ma certo, certo. Come certo? No, dico certo, se, certo, perché sono morto è sicuro. Certo, sono rimasto toccato, perché come qualsiasi persona che ha un minimo di cuore e di buon senso sicuramente più 823% sì di clandestini nell'ultimo anno, eh. Ma dove? In ma Italia. Questi clandestini sono i primi che qui non ci vogliono stare, perché gli fa schifo il nostro paese. Quindi se tu li intervisti, come abbiamo fatto noi in Sicilia ad esempio, quando sono andato, questi ti dicono che qui non ci vogliono stare, vogliono andare in Germania. Perché hanno capito che fa schifo sto paese. Quindi sbarcano perché qui. Perché fa schifo? Non ho capito. Perché hanno capito che fa schifo. Ma guarda, allora, che gente c'è. Sì, ma siccome purtroppo dobbiamo tenerli gente qui, gente che specula sulla morte di queste persone qui, addirittura fanno la rubrichetta divertente, certo, pseudo divertente e comica. Certo, sbarcare informati. È proprio disumano. Sbarcare informati. È proprio vergognosamente disumano. Ma neanche proprio disumano. Luigi disumano da Milano, buonasera. Neanche razzista, sì, buonasera. Oltre. Allora? Io sono letteralmente incazzato a sentire tutte queste fesserie di complotti politici e non complotti politici. È solo una questione di soldi. In che senso? Gli hedge fund americani a metà luglio decisero di andare contro l'Italia perché certo vedevano lo spazio. Certo. A settembre, quando Gartner disse quello che disse, c'erano già vendite allo scoperto per 1500 miliardi di euro, per cui tutto il resto è fuffa. Cioè lei dice che la crisi finanziaria in cui andò a mettersi l'Italia fu creata solo per motivi di soldi? Ma certo, ma certamente le banche americane che se ne fregano, i mercati finanziari non se ne fregano assolutamente nulla dei politici destra. Approfittarono della debolezza del governo italiano, questo vuol dire? Assolutamente sì. Per e fare poi, cosa facciamo? Ci facciamo il processo alle intenzioni? Se Geithner disse no ai fantomatici funzionari sì. europei, qual è il problema? Ha detto no. Beh, ha detto no. Che non hanno andato avanti. Beh, ha detto no alla collaborazione dell'America. Loro poi magari sono andati avanti lo stesso. Ma c'erano già 1500 miliardi di vendite allo scoperto. Se volevano ricoprirlo. Luigi, ma lei magari ha ragione. Però più tardi, perché ci ho parlato per telefono, sentiremo quello che dice il professor Edward Luttuak a proposito del complotto. Dove andiamo? Pietro da Roma. Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Io volevo fare un commento sul ritorno di Dell'Utri in Italia. Sì. Prima sentivo un'intervista, l'intervento che ha fatto con te, dove diceva che gli piacciono le banane. Sì. Beh, io faccio un appello a tutti i carcerati del carcere che ospiterà Dell'Utri, in modo che gli riservano il giusto trattamento. Ma lei è una bestia, ma lei è un animale. E gli facciano assaggiare la banana italiana. Lei è un animale, bestia. Dell'eroe a un mafioso, uno che dà dell'eroe ma a un cosa mafioso. Cioè, secondo lei dunque dovrebbe essere stuprato in carcere Dell'Utri? Sì, assolutamente, con quel bel culetto vergine che si ritrova, poi guarda. Questa è una stupidaggine, ma questo è un animale. Beh, però tutti indigni per le stupidaggini di porco. Questo e non aspetti per i morti di Lampedusa. Lei è un porco, pazzesco. Cioè vuole punire Dell'Utri in questo modo? Assolutamente. Ma lei non ce la farebbe nemmeno. Un attimo, fidati che ce la faccio. Ma uno che date è mafioso. Un attimo, fermi. Rosa, rosa, rosa, se va bene, rosa. Ma perché c'è sta voce? E il conduttore? Sì. Pronto? Sì, pronto. E il conduttore? Sì. Senti, io voglio rimettere quello che Brunetta. Dimmi. Perché qui c'è? A proposito di razzismo, no? Basta, poco fa, aspetta, però sei minuti fa, sì. Salvini, no, sì, ma lascia stare, il segretario della Lega Nord scrive su Twitter: sì. A Mestre il comune riserva piscina pubblica per 3 domeniche a donne islamiche. Sì. Non è integrazione, è suicidio. Ora, che il comune di Venezia, che è un posto civile, decida di dare alle donne islamiche che non possono farsi il bagno con tutte le altre per le loro ragioni di costume, sì, sì. 3 giorni solo per loro, che il signor Salvini, che il non signor Salvini, ha riservata una piscina comunale 3 giorni solamente alle donne islamiche per 3 domeniche per solo alle donne, perché ma loro non impazzito. Si possono ma sei diventato pazzo agli... Allora, non ma sei diventato pazzo, ma sei hanno, diventato. Ha ragione il comune, sei diventato è una pazzo. Misura di civiltà, ma quale civiltà Una intimità diversa dalla vostra, dalla tua, da ma si facessero una piscina loro, ma facessero una piscina privata. Ora, siccome pagano le tasse in Italia queste donne islamiche, allora, hanno e diritto allora, di avere gli stessi e allora, servizi. Ma che c'entra? E il comune di Mestre, a cui va fatto un applauso. Ma un applauso. Sentiamo Salvini. Aspetta, ho l'audio di Salvini, aspetta. Quando a Mestre, la domenica, la piscina viene chiusa agli italiani e agli stranieri e viene riservata alle donne islamiche perché devono fare il bagno da sole vestite. Secondo me non è integrazione, quello è accettare e subire una cultura che non è civile. Ha ragione Salvini al 100%, in questo caso al 100% ragione, non è che ha ragione sempre, in questo caso ha ragione. Assolutamente no. La piscina perché comunale. Siccome queste persone pagano le tasse, sono cittadini italiani. E beh, che c'entra? Sono cittadini che c'entra? Come tutti gli altri. Pure i delinquenti pagano le tasse in teoria, non è che però c'è una corsia preferenziale. Tu stai paragonando i delinquenti delle donne islamiche? Ti dico. Stai paragonando i delinquenti e le donne islamiche? Non ho detto questo. Hai paragonato i delinquenti sì, a donne islamiche che vivono qui e pagano le tasse. Ma non e pagano la pensione a tua nonna, che hai capito se ce l'hai, se c'è ancora. Le donne islamiche che vivono qui e lavorano e vanno in giro con quelle palandrane che a te non piacciono, magari ovviamente neanche a me, ma hanno diritto di farsi il bagno nelle piscine pubbliche perché pagano le tasse. E siccome hanno un'intimità diversa dalla tua, non saranno i 3 giorni decisi dal civile comune di Mestre, dal civile civile. Cioè, per tre giorni gli altri non possono entrare. Possono entrare solo le donne islamiche. Ma siamo, allora, ma per sei qualche normale, ora, no? Per qualche ora, siccome loro hanno un'intimità diversa dalla tua e hanno prescrizioni diverse, uno stato liberale. Anche a me, che ne so, piace pisciare in pubblico. Voglio pisciare in pubblico. Stai paragonando il culto degli islamici col fare la divisa. Oppure sono nudista. Spero che Camaneo. Sono nudista. Io spero sono che qualcuno nudista. Sia in ascolto. No, ma sono nudista. Qualche cellula dormiente, dai. Spero che io sia sono, in ascolto. Io sono nudista. Sono nudista. E voglio e andare in piscina. Hai le spiagge riservate ai nudisti. Voglio invece, siccome pago le tasse, voglio che una piscina pubblica. E infatti hai la possibilità di avere degli spazi. Richiamatemi Pietro. Voglio che una piscina pubblica. Voglio che una piscina pubblica mi conceda, insieme alle persone nudiste come me, ci sono un'ora. Spiagge dove puoi fare il nudismo, non lo puoi fare dappertutto, ma ci sono delle spiagge. Ma io voglio che una piscina farlo. Pubblica lo faccia, voglio che una piscina pubblica. Roba. Ci sono delle spiagge in cui puoi fare il nudista. Luigino da Vicenza. È così. Dai, sono. Su, dai. Oh. Dimmi. Dottor Cruciani, dottor Parenzo. Dimmi. E gentili radioascoltatori, buonasera a tutti. Sì, è arrivato il matto. La pace sia con voi. Ma la pace sia con voi, dipende. Vai, Luigino, dimmi, dai, Luigi. Già uno che si chiama Luigino. Volevo fare un intervento sull'Expo. Dai, su, come si fa a chiamarsi Luigino? Ma poveretto, dai, Luigino, dai, su. Così mi chiamo. Ma ho capito, Luigino, uno cambia nome a un certo punto, no? Luigino. No, ma perché cambiare nome? Ma Luigino, ma che è un nome, Luigino? Dai, è una cosa penosa. È un nome, è anche molto carino. Ma quando mai, Luigi? Non vabbè, comunque, sono come il nome, vale dal nome. Allora? Allora, il mio intervento è riguardo all'Expo. Sì. Innanzitutto volevo dire che senti aspetta uno... Luigino, un attimo, se lo poi do subito la parola. Il signora, il tuo amico Diego Volpe e Pasini Parenzo, dice questa cosa di Mestre è illegale, denuncio il comune di Mestre in sede amministrativa, certo. E penale. Amministrativa e penale, sì. Vuoi dire qualcosa al signor Volpe in Pasini? Ma di qualcosa. Ma così, ascolta adesso. Ma allora, Volpe Pasini denuncia il comune di Mestre perché per questa strada alla piscina. Sì, è Luigino da Vicenza, dai Luigino, forza. Eccolo qua. Allora, volevo parlare dell'Expo. Volevo no, una prima riflessione è quella. Una prima uno dei principali protagonisti di questa vicenda è uno strano qui, è un vicentino, è proprio un'impresa. Vabbè, di Vicenza. Però andiamo al sodo, Luigino, andiamo veloce, allora, dai, forza. Ma se mi fai parlare, praticamente questo qui, cioè volevo solo, giusto per, se ce n'era bisogno, per dire agli amici leghisti che in Veneto abbiamo di tutto, voglio dire, se il Veneto è i Veneti, se il Veneto è come questo, forse è meglio che lo diamo, per così dire, ai slavi, no, ai Veneti, hai capito, no? A gente come ma tu qua. Hai capito, Parenzo, cosa vuole dire questo purtroppo qua? Molto poco. Che cosa vuoi dire, Luigino? Cosa vuoi dire? Non ho capito. Dimmelo in Veneto che io ti capisco. Il Veneto è i Veneti, sì, i Veneti sono tutti quanti come questa impresa vicentina che è coinvolta nell'Expo. Forse diciamo che il Veneto. Vabbè. T'ho abbandonato. Ciao Luigi, ti ho abbandonato. Riprendiamo Pietro da Roma, dai. Pietro, sì, allora. Ciao. Ma io non ho capito che cosa vuoi fare a Dell'Utri. No, l'ho spiegato prima, insomma, mi auguro che lui, ma anche che il pregiudicato nano pedofilo. Pedofilo pure, sì, certo. Pedofilo, si è fatto una 17enne, quindi è pedofilo. Sì, fino a prova contraria, certo. Finché c'hai meno di 18 anni e te la fai, sei un pedofilo. Mi auguro che tutti abbiano lo stesso trattamento in carcere, perché ci andrà anche lui, molto probabilmente, come c'è stato Previti, come c'è stato Scaiola, come c'è stato... Insomma, tutti questi pregiudicati. Poi, insomma, vorrei fare un appunto a Martino, che prima ha detto che non va in Parlamento perché si rompe le scatole, che stanno antipatici. Sì. Diceva che aveva due figlie, ma io mi chiedo, ma Martino, ma che insegnamento gli dai ai tuoi figli? Non vai a lavoro perché la gente sta antipatica. Cioè, noi ti paghiamo lo stipendio... Effettivamente ha detto così. Che... Noi ti paghiamo lo stipendio e te non vai al lavoro. Ma siamo scemi, mio padre fa il medico, ma se non va al lavoro la gente muore. Ma che... No, soprattutto penso che lo licenziano se non va al lavoro, no? Mi immagino. È roba fuori dal mondo, ma perché non gli avete detto niente? Ma questo come s'azzarda? Beh, gli abbiamo detto, Ma come s'azzarda a dire che non va al lavoro perché c'è gente che gli sta antipatica? Imbecille! Oh, noi ti paghiamo, te devi andare al lavoro ogni giorno. E poi che dici che... C'hai tanti soldi e che fai? Il buon samaritano che, no, ha detto, che, aspetta, che no, se rimanevi a fare lavoro che voleva lui guadagnava di più. Lo sappiamo, l'aspettessi di leccare il culo a Berlusconi, perché tanto... Vabbè, che basta. C'entra adesso leccare il culo a Berlusconi, dai. Ma sì, ma basta leccare il culo a Berlusconi, basta, è finito, prenderà una schiacciata da tutti, lo schiacceranno, basta. Alessandro, provincia di Reggio Emilia. Ciao Pietro, Grillo a Roma in diretta, sentite. Scatenato, Grillo. Essere quasi... Vabbè. Alessandro, provincia di Reggio Emilia, dai. Sì, grande Cruciani, numero uno. Vai, dimmi. Mi ha anticipato il Pietro da Roma. Io, Martino, io perché non è rimasto a allora, ricordiamo a tutti, il professor Antonio Martino, prima è intervenuto su altri temi, eccetera. A un certo punto gli abbiamo detto 18% di assenza in Parlamento, di presenza in Parlamento. Presente. Ha detto, mi stanno antipatici tutti, il Parlamento non serve a niente, ti porterei un giorno lì a vedere come funziona la democrazia, di male in peggio, casa, allora. Non ci vado. E infatti sta a casa, solo che se mette in saccoccia lo stipendio. Medio, vitalizio, tutto prende quello. Vabbè, poi ha detto anche che ci ha rimesso in sostanza, avrebbe guadagnato di più a non fare deputato. Dopo sei legislatore. È anche ammazziato. Cruciani, scandaloso Martino. Dovete dirlo però. Scandaloso come molti altri, non solo lui. Scandaloso. Ciao Alessandro, sarà ciao. Sarà qualunquista, ma è scandaloso. Ciao, ciao. Parenzo, un'altra notizia di oggi è l'assoluzione totale dei professori del liceo, anzi dell'asilo, credo, di Rignano Flaminio. Ah, no? Quella storia? Sì, sì. Ti ricordi? Un altro processo perso da Torino. Esatto, tu ti ricordi chi era, chi è, credo, ancora il difensore di alcune famiglie? Che protestano perché il dicono. Difensore e anche l'accusatore, lui era l'accusatore delle maestre. Sono state commesse delle cose gravissime. Taormina è. Sì, stato. Delle cose gravissime. Sì. Il professore, altro processo perso dal professore? Altro, adesso sappiamo se ne. Sì, altro processo perso. Altro adesso. Qualcuno rabbia, dice, qualcuno mi dice. Diglielo in faccia se qualcuno mi. Sì, certo che io dico, lo chiamo più tardi, certo. Ma abbiamo con noi grande ritorno alla Zanzara, Luigi Bisignani, buonasera. Oh, buonasera. Come sta? Bene, bene, stavo sentendo la vostra la considerazione sul processo. I processi in Italia sono sempre lunghi. Molto lunghi, mai. Molto lunghi. Infatti lei, per non sapere leggere e scrivere, ha patteggiato alcune volte. È così, tanto Sì, ma guardi, il fatto di patteggiare è proprio la lunghezza del processo. Secondo me, a parte il fatto che il patteggiamento è un accordo tra le parti. Qualcuno dice un'ammissione di colpevolezza. No, veramente il codice non dice che è un'ammissione di colpevolezza. È proprio la lunghezza dei processi che secondo me... permette più patteggiamenti. Senti Parenzo, ma tu come lo definisci il signor Bisignani, che ha scritto un libro Il direttore per care lettere? Oggi romanziere che in passato, no, perché io e Bisignani discutiamo ogni tanto sulla definizione di faccendiere, perché la definizione di faccendiere per me non ha un'accezione negativa. Lui, che invece è un po' più, come dire, a modo di me, molto più a modo di me, la prende male questa cosa qua, vero Bisignani? Beh no, perché il faccendiere si occupa di faccende, io non mi sono mai occupato di faccende ma di uomini, per cui da questo punto di vista il faccendiere non c'entra niente. Io metterei lobbista forse. Lobbista è un fatto che negli Stati Uniti, come voi sapete benissimo, è una professione nobile. Quello che bisognerebbe fare è proprio un elenco dei lobbisti che stanno in Parlamento alla luce del sole, come tutte le democrazie migliori, mentre invece non si fa mai. È come la legge sul conflitto di interesse. La sinistra parla sempre del conflitto di interessi, la legge non la fa mai. Una legge sui lobbisti sarebbe sacrosanta. Sai che una volta Berlusconi disse, Parenzo, che Bisignani era uno degli uomini più potenti d'Italia. Non so quanto vantaggio ebbe da questa cosa Bisignani, ma oggi Bisignani, chi sono gli uomini più potenti in Italia? Sì, una mappa. Me ne elenchi tre, diciamo la top three. Il podio. Beh, secondo me podio al primo posto assoluto Mario Draghi. Mario Draghi. L'unico italiano, secondo me, che veramente conta, che conta nel mondo. Sì. Secondo, in questo momento, ma non so quanto dura, Renzi. Direi pro tempore, sì. Renzi, sì. Certamente Renzi. E terzo sicuramente la rete, intesa come la rete, cioè la rete come possibilità anche di sputtanamento, dice lei. La rete come possibilità di sputtanamento o anche come possibilità di portare nuovi temi, portare sulle persone. Io metterei il capo dell'ENI invece. No, il capo dell'ENI. Capo dell'ENI. Il capo dell'ENI no, perché poi dipende sempre da qualcuno il capo dell'ENI, cioè lo nomina. No, no. Beh, no. No. Una volta nominato il capo dell'ENI dipende dal mercato, perché ormai l'azionariato dell'ENI e dell'ENEL è talmente diffuso che insomma non è più come una volta. Qualcuno dice, in particolare D'Agostino e altri, ma non solo Roberto, eccetera, che in realtà il presidente del Consiglio d'Italia non conta niente. Cioè, rispetto ad altre cose, ormai non contiamo più niente, può decidere solo poco, sì, qualche nomina dell'IED. Questo è vero, infatti il grande errore, secondo me, che ha fatto Renzi è quello di mettere prima all'attenzione del Parlamento la legge elettorale, avrebbe dovuto mettere prima la riforma della presidenza del Consiglio per fare in modo che il presidente del Consiglio italiano abbia gli stessi poteri del presidente del capo del governo francese o del capo del governo inglese. In realtà lui conta poco. Ma lei chi vota Bisignani il 25? Ma il 25 io credo che voterò Forza Italia. Forza Italia, preferenza? No, non c'è. Sì, l'ha già detto una volta. Preferenza per la signora Rizzoli, che è un medico molto valoroso. Ah, Melania Rizzoli, certo. Melania Rizzoli, che è veramente un medico valoroso. E poi è marito, è moglie dell'ultimo editore puro. E nel mio libro, il direttore, io dico che uno dei guai appunto della situazione italiana è che non c'è Angelo Rizzoli. È il conflitto di interessi nella. Ma perché? Ma lei ha sempre votato Forza Italia recentemente? Ma io veramente ho sempre votato Andreotti finché ho potuto. Andreotti. Poi ho votato Forza Italia e poi ho votato per i radicali. Per i radicali? Ah. Cioè ha alternato radicali e Forza Italia? Assolutamente sì. Capito, Parenzo? Sì, beh, abbiamo una cosa in comune, anch'io ho votato radicale. Ti vergogni? Ti vergogni? Ma perché no? Che ne so, hai dato l'impressione di vergognarti. No, ma io mi vergogno, mica c'ho. Che c'ho? No, e che ne so, magari ti sta sulle palle Bisignani. Ma assolutamente no. Grande uomo di potere. Oggi diciamo, ma soprattutto se nelle sue relazioni col Vaticano, cosa ci dobbiamo aspettare? Mi dica una cosa sorprendente che farà Bergoglio, che tutti, magari che nessuno sa. Secondo lei cosa combinerà di altro? Ecco, tra i potenti non ha messo Bergoglio. Ma però io gli ho detto in Italia. Gli italiani. Bergoglio è carismatico, adesso sta preparando. Però non è il suo papa ideale, secondo me. Beh, come no? Forse solo perché è argentino, paese dove io vivo. È vero. Per cui da questo punto di vista, anzi. Ecco, quello che deve fare è, secondo me, dare ancora un'accelerata alla riforma della curia e così veramente la Chiesa può guardare. Cioè, chi deve far fuori ancora? Beh, no. Più che far fuori, deve mettere alcune persone in posti veramente operativi, insomma. Lui è un po' come Renzi, cioè questa grande bolla mediatica deve poi trasformarsi effettivamente in una macchina. Deve ancora rottamare qualcuno? Deve ancora rottamare, beh, in Italia ce ne stanno ancora tanti. No, ma Bergoglio dice, deve ancora rottamare qualcuno? Beh, insomma, però comunque ha riaperto le porte della Chiesa in tutto il mondo, insomma, in tutta America c'è veramente le chiese nuovamente piene, mentre invece c'è la Chiesa evangelica che stava prendendo piede prima di. Ma quante volte va a messa lei, Bisignani? Beh, no, io vado a messa ogni domenica. Ogni domenica, beh, normale. Perché credo che sentire il Vangelo ogni domenica è una cosa importante, perché comunque ti fa riflettere. Ecco, quello che sarebbe importante è che i sacerdoti dicessero delle giustizie. A volte purtroppo ti cascano un po' le braccia. Sì, cascano le braccia. Perché che fanno? Le omelie, come sono le omelie dei sacerdoti? No, dovrebbe politiche. Essere. No, non politiche, no. Noiose. Sì, noiose, insomma, mentre invece secondo me con le omelie potrebbe essere, quando ci sono dei sacerdoti veramente bravi, ecco, uno rimane affascinato. Comunque, Parenzo, mi segnalano che come mai sei così, come dire, accondiscendente, non ti stavano sulle palle le persone condannate che avevano avuto dei problemi con la giustizia? No, ma Bisignani. Invece Bisignani sei così accomodante, ma come no, al solito. Accomodante non direi. Ma cioè, ti accomodi. Ma il fatto che voti radicale come me non è che posso azzannarlo perché vota radicale, no, posso... mica per questo. Anzi, proprio l'altro giorno mi ha fatto molto piacere che presentando un libro di un ragazzo, Alessandro Iovino, su Andreotti a Torino, c'era Mauro Mellini, che è stato un grande personaggio radicale, quelli che ha fatto la battaglia sul divorzio in Italia. Sì, come? Ah, a proposito, c'è il divorzio breve adesso, C'è il divorzio breve, sì. Da cattolico lei che dice, io sono d'accordissimo. Sono d'accordo. Oddio, voglio riprendere una cosa di Giovanardi che ha detto, una cosa incredibile che ha detto Giovanardi. Dove sta? Che me l'ero segnata qua, il mitico Giovanardi. Eccolo qua. Dice una al giorno. Senti, al giorno. No, su temi come questo si fa cadere un governo, sul divorzio. divorzio breve. Dice che vuole fare una battaglia pazzesca. Il divorzio breve è come quando i musulmani sposano una prostituta. Senti, come quando i musulmani sposano una prostituta perché non possono. Aspetta, sì, sarà giovanardi, però aspetta. Certo, dai. Perché non possono fare sesso fuori dal matrimonio e poi dopo due ore la ripudiano. Un matrimonio di finzione. Cioè, dai, su come si fa? Bisignani su questo sarà d'accordo con me. Nella vecchia Democrazia Cristiana, diciamo che Giovanardi avrebbe occupato, avrebbe distribuito i volantini a Piazza del Popolo, diciamo, no? Assolutamente. E a proposito, visto che parliamo di Papa Bergoglio, io credo che lui metterà mano anche alla Sacra Rota, pure che è questo tribunale, cioè? Vaticano. Cioè, beh, che farà? Secondo me renderà molto più snelle le procedure per gli annullamenti dei. Beh, già sono snelle, basta pagare un po' un minimo. No, vabbè, ma comunque sicuramente molto più trasparenti. Mentre invece sul divorzio breve io sono d'accordo, perché poi quando si arriva, io grazie a Dio, una cosa che non mi riguarda, è talmente un massacro familiare per i figli e così via. Sì, sì. Quel punto più breve e meglio. Senta, ma sto complotto esiste o no? Bisogna, alla fine, lei che è l'uomo dei misteri, l'uomo delle. Ma il complotto esiste, è sotto gli occhi di tutti, perché il complotto è stato contro l'Italia, è stato contro la Grecia, il complotto degli Stati Uniti è praticamente un complotto perenne contro l'euro e contro l'euro. No, però mi scusi, qui si parla di un'altra cosa, cioè di europei, Geithner dice, cancellerie europee che francesi chiesero e tedesche contro l'Italia. Certo. Quella è stata una doppia operazione. In quel momento, soprattutto la Francia, era molto più debole dell'Italia. Il sistema bancario francese e anche il sistema bancario tedesco erano molto, molto più marci rispetto al sistema bancario italiano, che essendo rimasto un po' indietro. E dunque? E dunque loro avevano tutto l'interesse a scaricare sull'Italia la situazione che c'è stata. Come se non gli bastasse, poi hanno chiesto anche una mano agli Stati Uniti. Ma Berlusconi è caduto per la sua debolezza o per le pressioni esterne? Me lo dica in 30 secondi, poi la pubblicità. Beh, è caduto sicuramente per la sua debolezza, facilitato dalla sua debolezza e per questa congiura esterna. Su questo non c'è dubbio. Un Berlusconi forte non l'avrebbero certamente trattato come l'hanno trattato. Sì, poco fa, parlando al telefono con il professor Edward Luttuak, professor Edward Luca, che interverrà fra una ventina di minuti qui alla Zanzara, poco più. Collegato dal Giappone. Sì, collegato dal Japan. Beh, il professor Luttuak dice delle cose molto pesanti su Berlusconi, dicendo che in un altro paese, così mi ha detto al telefono, ma era una cosa che già aveva detto, Più tardi l'intervento di Luttuak. C'è qualche nome che non conosciamo, lo chiedo a Luigi Bisignani, che ha scritto per Chiara Lettere il direttore, ma insomma è uno dei più grandi conoscitori della storia della prima e della seconda Repubblica Italiana. C'è qualche nome che non sappiamo in questa vicenda del complotto? Napolitano, che ruolo ha avuto secondo lei, Bisignani? Ma Napolitano, secondo me, in quella fase è rimasto abbastanza neutrale. Tutto. Io non credo che lui abbia avuto un ruolo. Non è stato il burattinaio. No, io questo lo escludo. E del resto, poi cioè ricordiamoci come è stato riconfermato entusiasticamente al Quirinale. Ma anche da Berlusconi. Anche da Berlusconi, per cui insomma queste sono ricostruzioni che si fanno dopo. Però io sono convinto che francesi e tedeschi tutto sommato hanno approfittato della debolezza di Berlusconi per eludere quelli che erano i loro veri problemi. E poi gli Stati Uniti giocano sempre contro l'euro. Ricordiamoci anche che la fondazione di Soros è quella che maggiormente si è interessata al movimento di 5 Stelle. Ma Pisano ebbe un ruolo, non ho capito, Soros 5 Stelle, lei l'aveva già detto una volta questa, ma dietro l'avevo già detto, l'avevo scritto rispondendo alle domande di Paolo Finanzia, Madonna. Sì, ma indirettamente. Scusi Bisignani, ma c'è ancora secondo lei un po' di Stati Uniti dietro Grillo? No. Beh, dietro, gli Stati Uniti ci sono, secondo me, dietro tutti quei movimenti che sono contro l'euro. Per cui basta vedere in giro per l'Europa quelle e vedrete e troverete lo zampino degli americani. Ma lo zampino che vuol dire secondo lei? Beh, finanziamenti, convegni, organizzazione, insomma tutta una serie di cose. L'euro debole è la cosa che maggiormente serve al dollaro. Però scusi Bisignani, nel caso di Grillo non mi sembra che ci siano finanziamenti o uomini che abbiano. No, quindi finanziamenti per carità assolutamente no, ma certamente è uno di quelli che maggiormente parla contro l'euro. Sì, questo d'accordo, ma che ruolo hanno gli americani nel Movimento 5 Stelle? In che modo lo supportano? Diciamo, mettiamola così. Lo supportano? Certamente non lo so. Cioè, un fatto è certo che i capigruppo di Camera e Senato sono abbastanza di casa all'ambasciata americana. Cioè lei sta dicendo che gli attuali capogruppo di Camera e Senato sono di casa d'ambasciata? Gli attuali non lo so, quelli che sono stati eletti subito dopo le elezioni, la prima cosa che hanno fatto, non andavano da nessuna parte, andavano sicuramente all'ambasciata americana. Ma no. Cioè, Grillo sicuramente si è incontrato con gli americani, il che vuol dire non è affatto un fatto. No, no, ma incontri no, riservati, cioè, come, parte, lo dice con certezza o è una supposizione? Cioè, lei sa per certo? Con Paolo Madron l'abbiamo scritto. No, l'abbiamo d'accordo, ma questo no, d'accordo, ma il documento non è mai stato smentito. Ma sono continuati questi rapporti? Ma io credo veramente di sì. Sono continuati i rapporti da Grillo e gli americani. Cioè tutti i movimenti. E i leghisti e gli americani? No, i leghisti magari. Beh, sono anti-euro i leghisti. Sì, sì, conteranno. Ti immagini Borghezio che contro l'ambasciatore americano? Senta, ma il colpo finale di Berlusconi di questa campagna elettorale quale può essere? Lei che lo conosce da tempo, non lo vede? Io spero che non siano né gli animali né le dentiere, insomma. Credo che sia qualcosa legato al fisco. Al fisco, vabbè, ma ne abbiamo sentite di tutte sul fisco. Che vuole. Per ora è un po' bloccato a Dudù, si fermo. E le prossime nomine di Renzi quali potrebbero essere? Ci faccio una previsione sulle prossime nomine di Renzi. Beh, le prossime nomine di Renzi o mette delle persone capaci e sue nei posti principali dello Stato, o altrimenti c'ha tutta l'amministrazione che gli rema contro, il che non è facile, avendo per di più un Parlamento dove non c'ha di fatto una maggioranza, insomma, o lui decide o di avere una maggioranza in Parlamento trovando il sistema per andare a votare, e probabilmente se va velocemente avrà un plebiscito, sì. O altrimenti deve mettere persone veramente capaci in dei posti, la Ragioneria Generale dello Stato, la Direzione Generale del Tesoro, sì. La Direzione Generale della Coesione, insomma, in quei posti per governare un paese. E le nomine delle quelle che mancano nelle altre aziende? Chi c'è? Ma no, quella poca no. Ma guardi, poi alle Ferrovie, per esempio, chi va? Ma le Ferrovie è una bella battaglia, dovrebbe andare Costellia e sarebbe una continuazione dell'amministratore delegato. Faccio una bella previsione, facciamo ancora una bella previsione. Lei sa tutto. Lei su De Gennaro. No, quella l'avevamo indovinata. Insomma. De Gennaro a Finmeccanica, stavolta il grande capo delle Ferrovie, chi sarà? Ma io credo che alla fine andrà Costellia, mi pare che si chiami così. La nomina interna, sì, la nomina interna. Va bene, Parenzo, che vuoi chiedere ancora? No, ma il Corriere della Sera, ragazzi, oh, ma che succede con Bazzoli? Ah, certo. Con Bazzoli ma azzoppato, signor Bazzoli. Signor Bazzoli un po' azzoppato, insomma, è proprio la dimostrazione finale della fine dei poteri forti, cioè in questo paese non ci sono più poteri forti, e quello che sta succedendo all'avvocato Bazzoli è un po' la fine, diciamo che è la fine di un'epoca. La fine di un'epoca, lei è un po' contento, o no? Beh, insomma, certo. No. La fine di un'epoca, se fosse veramente la fine di un'epoca, cioè che se cambiasse veramente tutto sarebbe salutare. In realtà non si riesce mai a fare il salto finale in Italia. Manca sempre qualcosa per cambiare. Ma questa vicenda di Bazzoli, anche sulla vicenda di RCS Corriere, certamente, perché cioè che De Bortoli alla fine quanto resisterà? Bah, io credo che De Bortoli l'oggetto del suo libro, alla fine, diciamola tutta, riveliamo sta l'oggetto del suo libro, la dico io questa qua, non la dica lei, non si può. Quanto resisterà ancora il suo amico, amicissimo De Bortoli, quanto resisterà? Ma io credo che De Bortoli troverà sicuramente altre soddisfazioni in altri campi in breve tempo. In breve tempo, addirittura. Sì, perché la situazione ormai si è talmente sfilacciata che credo che lui non abbia neanche più interesse a rimanere. E dove va? Ma non lo so, nel libro del direttore, che peraltro sta andando molto bene, io penso che lui va a fare il presidente della RAI. Il presidente. Ah, presidente. E sarebbe, secondo me, anche un bravo presidente della RAI. Va bene, a presto! A presto. Ciao. Le previsioni di Bisignani. Un po' diverse da quelle che ogni tanto proponi di quel cialtrone lì che ogni tanto viene. Ah sì, ma noi siamo alto basso. No, ma voglio dire, ecco, bisognerebbe mettere a confronto le previsioni di Bisignani, che in genere si realizzano al 99%. No, vuoi sentire una domanda di Minoli a Berlusconi oggi? Una domanda di Berlusconi di Minoli a Berlusconi. Senti una domanda di Berlusconi. Aspetta, una domanda di Minoli a Berlusconi. Senta, presidente, lo sente il peso degli anni? Silenzio. Lo sente il peso degli anni? Le sembra che lo senta? No, mi sento bene. Fortissimo Berlusca. Fortissimo il Berlusca. Allora, riveliamo quello che ti ha detto Berlusconi. Allora, ieri ha incrociato Berlusconi, ieri ha incrociato Berlusconi a Radio 24. Sì, dai, su, no, riveliamo subito. Qui grande trasparenza. Riveliamo tutto subito, subito, subito. Ha incontrato Berlusconi a Radio 24. Dai, di pomeriggio, dai. Dai, smentisco tutto. Dai, hai incontrato, io sto dicendo che hai incontrato, non dico nient'altro, hai incrociato, c'è stata sta conversazione, me l'hai raccontata ieri sera. Hai incrociato Berlusconi a Radio 24. Chiaro? Allora, ieri ero qui. Hai incrociato Berlusconi, lascia perdere perché ho incrociato, va bene, Berlusconi. Signor Berlusconi, sì. Il quale Parenzo, presidente, come stai? Bene, bene. Ma non mi invitate mai a quella zanzara? Ma dico, presidente, quando vuole, se qui è qui, sì, è benvenuto. Certo. E poi le ragazze che erano accanto a lui, ragazze, cioè, no, ma c'è, la senatrice Rossi, l'onorevole Bergamini, vabbè ci pensiamo perché voi siete pericolosetti e lui invece era tutto contento, era sorridente, ma sì, perché da questo punto di vista è numero uno. Poi a un certo punto tu ti sei avvicinato, no, e hai detto, senta, dopo abbiamo chiacchierato, come stai, come mi ha detto, fai sempre il comunista, dico, ma insomma, no, comunista no, presidente, era veramente forte, no, su Radio Belva, dimmi se hai detto, no, su Radio e Belva. poi gli ho detto, guardi presidente, ho saputo che lei è stato uno dei pochi chi a sostenere e a ritenere anche molto bello l'unica puntata di Radio Belva, e lui ha detto, sì, mi sono veramente divertito moltissimo, l'ho guardata tutta, lo confermo. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso, vedi, cioè, guarda, vedi, eccola qua. Oh, Beppe Grillo ha da poco scritto: sono da sempre contro la vivisezione, sono molto affezionato al mio cane Delirio e auspico una partito vivisezione attraverso la democrazia, cioè la vivisezione dei partiti. I'm nature's mosquito. Certo che la risposta alla Pascale, la successiva risposta alla Pascale se la poteva anche risparmiare, eh? Luigi da Milano. Luigi, vai. Sì, ci sono, cazzo. Sono 200 chilometri che sono in linea. Vai, vai. Uscia che è lì vicino a te. No, sono a Roma. A favore dei nom, dei rom, dei clandestini. Ci riporti a casa sua. Eccolo qua, un altro intelligente. Portati a casa tua. Ecco un altro intelligente. Eccolo, eccolo qua. Portateli a casa tua. Lascialo parlare, Luigi. A casa tua. Sei un coglione imbecille, nato tu. Imbecille, poveretto. Sei un bauscia. Poveretto. Ma che c'entra bauscia tu? Sei un bauscia. Poverino. Sei un bauscia. I rom fanno paura. Casa sua chiama i rom. Mamma chiama i rom, mia, chiama i clandestini. Ignoranza. Ma chi chiama i clandestini? In Roma. Vieni in Ma Svizzera. Ti sei Io picchiato in testa. Tu sei picchiato in testa. E quei come te che fine fanno? Picchiato in testa sei. Io non riesco a capire tua moglie come fa a venire insieme a te. Ma io non riesco a capire quanto picchiato in testa sei tu. Ma non vado, fregatene di quello. Ma non ti permetto di parlare della mia famiglia, cretino, baccato in testa sei. Baccato in testa. Ma scusa, ma cornuto che c'entra? Guida senza mani e chiudi gli occhi, così ci fai un favore alla società. Accelera con la macchina, togli le mani dal volante e chiudi gli occhi. Facci un regalo, va. Togli le mani dal volante. Spingi sull'acceleratore e facci un regalo, amico mio, già che sei in macchina. Forza. Scusi, Luigi, che ti vediamo col piattino tirare in piazza Milano, davanti al Duomo. Ma cosa ha detto prima sull'organo sessuale? Non ho capito bene. L'ho intesa male la cosa, Luigi. Ha detto leva le mani e guida e io ho detto io guido, sai con cosa guido? Le mani. Con che e guida? Questo qua lo do però per metterlo in culo a lui. Mamma mia, Luigi, però lei può anche essere contro i clandestini, eccetera, però ha sbracato a un certo punto. Ragazzi, ma con questo qua ogni volta che rientro dalla Svizzera mi sento bauscia e che continua con i clandestini. Rimani in Svizzera, guarda. Non ma abbiamo più la famosa fuga dei cervelli, guarda. Auspichiamo la fuga di questi cervelli. Vai in Svizzera, amico mio, vai pure in Svizzera. Non sentiamo la tua mancanza. Non sentiamo la tua mancanza, asino al volante. Asino al volante. 500 euro che vai fuori dal coglione, ti ritorno. Asino al volante che sei. Ti faccio fare un paio di massaggini che conosco io in Svizzera, chissà che non ti cambi idea. Ma dove stanno sti massaggini? Me lo dica a me, Luigi. Poveretto. Dove stanno sti massaggini? È in Svizzera, nelle varie, nei vari centri benessere che ci sono. Te li fai fare, sì. Tu, la moglie, per banco, la moglie in Italia, la moglie in Italia, le puttane in Svizzera. Ehi, ragazzo, tutte le settimane. Alla faccia vostra. Dunque, come ho detto io, la moglie in Italia, le puttane in Svizzera, giusto? Per banco, no, non sono per banco, piano. Insomma, per banco. Sono dottoresse. Sì, dottoressa dell'amore. Sono insomma, dottoressa dell'amore, scusami, è vero, sono dottoressa. In che senso sono dottoressa? Scusa, Luigi, professore. Perché sanno dove toccare. Ah, ecco, buono. Dove la che cosa, quali lavoretti si fa fare lei? Così per curiosità. Vabbè, adesso però non è che tutto. Si... Tutto, eh. Tutto. Servizio. 4-6 mani, non ha importanza. 4-6 mani addirittura. Certo. Quanto paga, scusi, per curiosità, anche là, quanto paga? Solo per curiosità, non per di non quanto? Per morbosità. Una giornata. No, ma quando va, sì. Ah. Dipende. Beh, vada, dica così ci informiamo. Non so, 200, 300, 400. Dipende, Ma dove trova il tempo di lavorare, scusi? Ecco, appunto. Tutta la settimana lavoro io. Tutta la settimana. E poi quando vai in Svizzera? Prima di rientrare in Italia mi fermo 4-5 ore. 4-5 ore si fa il prelievo e torna. Il prelievo, ma pure tu. Ma quale prelievo? Ma vedi che pausa. Il prelievino ti fai fare? Ti fai fare il prelievino e poi torni a casa dalla moglie. Ciao amore, sono tornato. Bravo. Ma scusami, ma io mi domando, intanto anche tua moglie si sta divertendo, però mentre sei in Svizzera anche lei comunque non è che se la passa male, secondo me, mentre tu sei in Svizzera anche lei si diverte, fatelo dire, guarda, pure lei si diverte, caro il mio ascoltatore Luigi, fidati, caro Luigi, che anche lei si sta divertendo molto. In che senso molto? È abituata bene, telefona per me di tornare a casa, telefona sempre, telefona, chiama, bussa alla porta, trovi cattive sorprese, guarda dentro gli armadi. No, te lo dico io. No, gli immigrati tutti a casa tua li trovi poi, non tutti a casa tua te li trovi. Hai sentito che se mi porti nel Trivio, se mi porti nel Vespasiani ci entro dentro, caro, perché in questa gara non hai capito Luigi? Non hai capito Luigi o no? Ha detto che a casa tua trovi un po' di clandestini che insomma, no, non so cosa fanno. Non credo proprio clandestini a casa mia, caro mio. Si divertono, vedrai. Ridi, telefona prima di tornare a casa dalla moglie però. Ciao caro. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a distanza. Senti questa meravigliosa signora, una supporter di Berlusconi che si chiama Noel Joy. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno, presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Sempre, finché morte non ci colga. Silvio, sei unico, sempre solo per te, fino all'ultimo mio respiro. Mio respiro, non grazie il suo, presidente. Fino al mio. Muoio prima io. Di credere ancora in questo sogno. Tieni duro Silvio, tieni duro! Tutti vedrai qui sempre! Si vuole bene! Ciao! Grande! No! È dieci anni con te! Fammi andare! Presidente, come è andata oggi, presidente? L'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Parlate un po' del complotto, direbbe Sgavi. Parla, scrivi del complotto. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere. Emozionato? Sì, ho il cuore a mille. Già, ma da sé avremo il cuore a mille sempre noi. Arrivi, vai, pronto soccorso, rescue remedy. Sì, va. Questo rallenta i battiti? Sì. Ma questo ci dà un sopporto. Tranquilla. Senti che mi scrivono. Ma sai chi è questa? No, chi è? È la Marina L. Io ho il numero, la conosco benissimo. Ma chiamala, imbecille. È una delle fan di Forza Italia, la conosco da 10 anni, che da quando lavoravo a Milano. Manda, dammi il numero immediatamente. Adesso devo andare di là a prendere, perché ho sull'altro mamma telefono. Mamma mia. 3-4 segna. Siamo no, ma che segno? Un cazzo segno, dai. Passalo, passalo in regia il numero. 3, 4, no, tutto trasparente. Ma non si può dire, 3... cavolo. Ah, non si può. Il numero della signora Maria Noè. Ma no, ma in questo caso non si può non dire il mio numero. Non puoi far sempre tutto trasparente. Ma che c'entra, dai, mi sono rotto i coglioni adesso. Ma adesso diamo anche il tuo. Tutto trasparente, si deve sentire tutto. Cruciani, allora dovrai cambiare il numero. Amico mio, tutti i clandestini d'Italia, l'ascolto. Ma chi amici c'è lì? Rom. Chi c'è lì? La signora Gentili? La signora Veronica Gentili? Purtroppo sto già ridendo sguaiatamente. Ciao, ciao tesoro, come stai? 3, 4, 8. Bene, amore, come stai? Oh, sono così felice volete di sentirti. Che vada? Quando ci fidanziamo? Ecco, adesso vediamo, dipende da come ti comporti. Beh, io mi comporto però sempre vergognoso, male. Però. Sempre male, privato? Batti i numeri di telefono così in mezzo. No, quello è Parenzo che lo vuole dare. Io non do il mio numero. Parenzo voleva dare il tuo, tu batti i numeri di donne così. Il tuo numero già ce l'ho. Adesso stiamo tutti molto calmi. Ho detto il numero, il numero, il numero. Tu appena c'è una donna, una ragazza, carina, cioè, però subito metti anche lì carina, sai pure tu stai molto calmo. Esatto, no, carina, no, dico, appena no, fai carina, così, carina, tutto da verificare. Due. Sicuramente c'ha due bocce così, quello no, non c'è dubbio. Ragazzi, per favore, però in caserma in 10 minuti, ma come mai? No, scherzo, dai. No, ragazzi, scherzo, dai, dai, vero, dai, bisogna stare calmi, dai. Ha ragione, ha ragione, ha ragione. Ha ragione, dai. È tardi abbassare l'età. 47 anni, dai. Che ha detto che ho un piede nella fossa, no, ovviamente non parlavo di te, tesoro, ho un piede nella fossa. Porto rispetto. Vi lascio ho da un soli, piede però, nella posta me... musica maestro. Well now little mosquito there must be. Allora, le piscine riservate ai clandestini. Voglio subito sì. un'opinione della signora Veronica. No, ai clandestini. Alle sì, scusa, alle sei donne. Sei un coglione, alle donne islamiche. Ci sarà qualche clandestino, no, ci sarà qualche clandestino. Ci sarà qualche clandestino pure, no? No, non ce l'ho capito. Allora. Alle donne islamiche, sì, preciso. Allora, signora settimana. Gentili, lei che sicuramente non è politicamente corretta, così, diciamo, in teoria, sempre in teoria, sempre in teoria. Allora. Ma lei, signor Cruciani, conoscendomi, che cosa pensa? Le piscine comunali che paghiamo con i soldi nostri, sì. riservate in alcune ore a mestre, a persone col velo, solamente perché non si vogliono scoprire. Questo spogliare, hanno deciso, capito? Lei è d'accordo oppure è contrario? Purtroppo sono estremamente d'accordo. Mamma mia, che vedi? Schifo, guarda. Non mi fate, c'è niente, mi fate c'è veramente niente orrore, mi fate veramente orrore, guarda, mi fate orrore. Ci sono sempre problemi dell'ebola, no? Come diceva Salvini, no, abbiamo il rischio di contrarre, ma c'è molto cloro in acqua, quindi è tutto ok, Mamma cioè, mia. Ma cioè, non capivo, voi siete ma se io decido, scusate, se io decido veramente di portare i miei amici nudisti e pretendo che ci il comune di Mestre no, pretendo che il comune apra una session nelle piscine comunali per i nudisti. Io col pisello di fuori, tutti quanti col pisello di fuori. E, beh, se te e lo fanno fare 2-3 ore al giorno. Ah, sì, allora riserviamo questo, non so, ai gay, non so, perché vogliono stare insieme. No, quelli non, so, non danno fastidio a nessuno, non, sono, non hanno prescrizioni religiose. I gay tendenzialmente entrano in piscina anche mentre ci stai tu. Anzi, stai attento. No, anzi, forse entrano di più. Gabriele da Firenze. Gabriele da Firenze. Buonasera. Dimmi, Gabriele. Allora, senti, niente, io relativamente al discorso dell'immagine shock su Pubblica, insomma, sono rimasto un po' provato su questo. Sì, ma guardi, le immagini dei clandestini in mare, io non è che ho detto che me ne frego, figuriamoci, muoiono delle persone. Bravo, diglielo, diglielo. Su questo non c'è dubbio, Gabriele. No, hai detto una cosa molto brutta. Ma io non ho detto una cosa brutta. Sì, l'hanno detto, sentita. No, ma io la posso anche ripetere 100 volte, non ho problemi. Il problema vero è che non è che uno dice, oddio, sono morti questi in mare. Ma certo, se pigli i barconi con i cosi, con i trafficanti, con i delinquenti, c'è la possibilità che muori e dunque finisci dentro il mare, no? Cioè mi sembra abbastanza scontata una cosa del genere, non sto dicendo che è colpa loro, ho già detto una volta, mi sono attirato le accuse eccetera, che se tu fai dei viaggi del genere ti puoi aspettare di crepare in fondo al mare, non lo ripeterò. Sanno anche se di ci rischiare, penso. Poverini, certo, il rischiano la vita per venire qua. Dimmi Gabriele, dimmi. Per essere onesto, allora, l'analisi che fa lei io onestamente le condivido, ma condivido anche quelle di Parenzo. Vabbè, allora condivide cioè, tutto, ma che c'è sta a fare? Che ha chiamato a fare? È così, no, colpa cerchio nella botta è finita. Esatto, brava, diglielo tu. No, non è così. No, perché è forte però sta gentile però. I clandestini quando vengono creano dei problemi. Però quando sono qua che fai? Beh, quando sono qua bisogna mandarli a casa, quelli che sono clandestini bisogna mandarli a casa, basta, a casa, subito. E poi vi devo dire la verità, anche su questa storia dell'asilo politico ci sono delle truffe spaventose, ci sono delle truffe clamorose, clamorose. Però mettiamola così. Ma qua l'asilo politico, ci sono paesi dove non succede nulla all'asilo politico, dai, basta con l'asilo politico, va tolta questa cosa. Ma che cosa dici? Che cosa stai dicendo? perché poi a un certo punto si fa un luogo comune, no? Dice destra comunitari. Allora, servono per lavorare. Ragazzi, sì, vabbè, ma io sono d'accordo con tutto. Anche dumping contrattuale, perché questo è vero. Dumping contrattuale. Però la sera o si può pretendere che tornino a dormire nel suo paese? Ancora il teletrasporto non esiste. Perché io penso che se esistesse il teletrasporto, loro sarebbero ben lieti di tornare a dormire nel suo paese. Va bene, Gabriele. Gianluca da Parma, buonasera, Gianluca. Sì. Vai. Per il Borussia, cioè non è che... era falso il comunicato della Lega sulla radio lì della Lega, è vero, vengono presi, accompagnati in un albergo non brutto, perché io ho un cliente che ha un alberghetto, la protezione civile gli ha affittato le camere, sono stati lì un giorno, vitto, alloggio, tutto pagato, il giorno dopo avevano già gli orari delle fiere e se ne sono andati. Ma che stupidaggine è? Quindi tutte le immagini che noi vediamo dei centri d'espulsione sono tutte inventate, cioè di solito arrivano e vanno in albergo a 4 stelle. No, alcuni andranno pure nel centro, ma molti alcuni. Effettivamente vengono ospitati in albergo senza nessuna protezione, cioè la protezione civile li accompagna, li fa alloggiare, dà un contributo di 25-30 euro all'albergo e poi non c'è più nessun poliziotto carabiniere che sta lì a sorvegliare. Il giorno dopo queste 20 persone... Scusate, gentili sì, e Parenzo, perché non ve li portate a casa vostra qualcuno? Ecco, portateveli a casa vostra, no? Ecco, ogni tanto fate qualche cosa. No, ma noi ce li portiamo anche a casa nostra, lo sai che noi siamo un fronte compatto e ce li portiamo a casa nostra, ma queste cose populiste tipo gli immigrati che prendono 40 euro al giorno mentre gli 80 euro in non più, è vero? Ma quando la smetteremo di tirarci addosso queste robe populiste così ma tipo quale partita populiste? Di tennis? Che c'entra populista? È vero, prendono i soldi o no? Ma quali soldi prendono? C'è una fase di passaggio che spesso è una fase di passaggio catastrofica, perché le abbiamo viste le immagini dei centri di espulsione, ed è un'emergenza che non siamo in grado di gestire. Allora l'Europa non collabora, tra un po' finirà che li faremo entrare tutti e li manderemo tutti a Ventimiglia, dopodiché arrivati alla frontiera che ognuno vada dove deve andare, la soluzione andrà trovata, perché non può essere un problema soltanto nostro. Fare polemica sull'operazione Mare Nostrum è così, capito? Ma cioè, è il mare loro, non Nostrum. Andiamo a prendere le persone e le portiamo in Italia, ma dobbiamo impedire che arrivino. Io ti giuro che ti ci vorrei vedere impedire che arrivino. Ma io perché dovrei stare? Io non ci sto sui barconi, non ci vado sui barconi. Ho il culo, la fortuna di essere in Occidente. Stavo per dire io, capito? Di culo. Ho il culo, mi è andata di culo. E allora esistono quelli che hanno culo e quelli che non hanno culo. In un'ipotetica reincarnazione magari te va male. Ma non esiste il bene per tutti. Speriamo. Cioè non sono stanno tutti bene. Questa cosa al devono prossimo stare giro tutti può bene. Essere che te va male. Uno. Vabbè, mi andrà male. Ma non cosa posso... c'entra che no... Ma nessuno dice che devono stare tutti bene. Si tratta di ridurre guarda, il danno, però. Tu stai però. Bene così nessuno perché vuole quelli tutte stanno male, capito? Tu stai bene in Occidente così perché quelli stanno male. Guarda che i veri liberali sono per ridurre la povertà, non per aumentarla, Infatti siamo anche aspetta, d'accordo. Aspetta, fermi tutti, sentite. È il caso di estinguere il nostro senso di colpa. Ma appunto, io da mo che io voglio estinguere il mio. Anch'io, io da mo che l'ho estinto. Servi di Roma fuori. Voci da Pontida, senti. Perché noi dobbiamo pagare le tasse e fare fatica e anche stare attenti a fare un figlio in più perché magari non abbiamo i soldi per mantenerlo come si deve e invece loro non si può sterilizzarli, non si può fare niente perché è proibito contro la loro religione. Continuano a far figli e non hanno i soldi neanche per mantenere se stessi. Cavolo! E se continuano a far dei figli, cazzo noi una, basta, perché due non riesce a mantenerli. Non permettere al tiranno di accecarti. Vai vedere le tue braccia possenti. Spettacolare, spettacolare. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada. Siamo qui, caro Parenzo, a parlare ancora di complotto. Il complotto che forse ci fu nel 2011, stiamo parlando del 2011, quasi tre anni fa, ai danni di Berlusconi. Così è stato scritto, ormai l'abbiamo detto più volte, dall'ex segretario al tesoro americano Geithner in un libro di memorie molto copioso in cui 12 righe sono dedicate a questa cosa e hanno fatto molto molto rumore. E abbiamo in collegamento da Tokyo questa volta e non da Washington come al solito il professor Edward Luttuak. Buonasera professore. Buonasera. Come sta professore anzitutto? Grande esperto di complotti. Per il momento bene, qui è un po' tardi ma non tardissimo. Secondo lei questo complotto, tentativo di complotto per destituire Berlusconi, come ha scritto il signor Geithner, fu ordito da qualche potenza europea, sì o no? Sicuramente è stato ordito dal presidente francese e dal cancelliere tedesco. Sì, Merkel. Insieme con l'appoggio di molte altre persone. Sì. Certo. E molte persone in Italia, sì. E molte persone in Europa. Sì. Perché in quel momento c'era? Il buono tesoro italiano, sì. Erano sull'orlo di essere argentinizzati, sì. Cioè di crollare di valore. Sì. Il ministro e il presidente del Consiglio, sì. Era occupato con altre cose. Tipo? Era occupato la sua vita privata e così via. Ah, era quindi, occupato in altre faccende affaccendate. Gli esperti italiani. Sì. Il Ministero del Tesoro italiano, gli altri Ministeri del Tesoro, tutti erano concordi di dire che questo paziente stava per morire e bisognava portarlo in ospedale. E dunque, secondo lei c'è stato questo complotto, ma in Italia chi è stato, come dire, il punto di appoggio di questo complotto? Napolitano, forse? Cosa fa un presidente francese? Chiama il presidente italiano. Sì. Cosa fa il cancelliere italiano? La stessa cosa. Tedesca, dice. Che chiama il presidente. Mentre in Italia stessi, diciamo che gli italiani, tutti quelli che analizzavano la situazione, se erano di destra, sinistra, sotto, di giù, sapevano la stessa cosa, cioè che qui c'era l'orlo della catastrofe. Per cui Napolitano ebbe un ruolo. Convergono su Napolitano, ma convergono anche su importanti leader italiani, gente come Pisano. Era un movimento generico di rovesciare un governo eletto democraticamente, sì. Per il fatto che il suo capo, sì. non era disposto di concentrarsi su questa crisi. Sì. Anche certi suoi ministri hanno informato i colleghi europei che non riuscivano a comunicare col Presidente del Consiglio. Addirittura. Che anche loro erano la stessa opinione, che c'era una crisi. E quindi c'era un consenso, sì. E naturalmente si rivolgono non solo a Napolitano, ma si rivolgono a capi parlamentari. Tipo? Individuali, dicendo. A chi si rivolgono? Pisano. Sì. Chiamano Pisano, io dico, guarda caro Pisano, tu sei una persona onesta, rispettabile, eccetera. Cosa pensi della crisi? Bene, se pensi questo portare via più su. Senta, ma secondo lei hanno fatto bene ad agire Sarkozy e la Merkel insieme a Napolitano per far cadere Berlusconi? Allora, credo che era inevitabile agire. Non sono un esperto costituzionalista, ma non era un colpo di Stato. Sì. Era un complotto, sì, perché è stato fatto dietro le quinte, sì. Ma era costituzionale, era democratico, era legale. Geithner, perché dice adesso queste cose? Perché scrive queste cose? Perché lui, quando in America pubblicano le loro memorie, sì. Loro tendono di volere raccontare tutte le storie inedite che ci sono. Sì. E in questo caso la storia inedita è che quando Merkel Sarkozy si sono rivolti a Obama chiedendogli anche lui di partecipare a queste pressioni, sì. Obama ha rifiutato, perché secondo Obama, è che diciamo il pensiero americano standard, il concetto americano standard è che la democrazia è più importante dell'economia, cioè il principio, proprio, sì, il principio, sì. Democratico della non interferenza è molto più importante che l'economia. Ma ha fatto bene? Ha fatto bene a non intervenire Obama? Non aveva scelta, nessun presidente americano avrebbe potuto intervenire in una cosa di questo genere. Senta, un'ultima cosa, ma Berlusconi sta facendo i servizi sociali, in tutto pagherà per il reato di frode fiscale 7 giorni in tutto, e sta facendo la campagna elettorale. Ecco, allo stesso tempo il primo ministro, ex primo ministro italiano, prende 6 anni di prigione per il fatto che il fratello ha incassato $150,000, cioè €110,000, per un permesso di costruzione quando era sindaco di Gerusalemme. Ecco, io non ho niente contro Berlusconi. Berlusconi con me è sempre stato gentile. Sì. In più, infierire contro chiunque non è una bella cosa. Ma il fatto che Berlusconi non va in prigione, sì. È una cosa che mina l'integrità dell'intero sistema legale italiano. Mm. il fatto che una persona che è condannata così pesantemente in 20 giorni è una tragedia, anche se a livello umano una persona come Berlusconi, che è sempre stata gentile verso di me, sì, personalmente, io non voglio, non ho nessun piacere di dire questo, ma è totalmente ingiusto. Quanta gente c'è in Italia in prigione per frode, diciamo così, per varie cose? Sì. E tutte queste persone possono dire, ma perché io sì e lui no? Professore, grazie, buona serata. Buon Giappone. Buona serata. Buon Giappone, arrivederci. Ma Parenzo, è ancora lì la signorina? Certo. Oh, Veronica, profumo di donna, si sente, oh, profumo di donna. Sono venuta per rianimarvi perché mi hanno detto che ti servivano dei sali e allora sono venuta. Dei sali? Perché sì, dei sali? Sai che di solito quando le donne svengono, ho avuto un mancamento, portate dei sali. Sì, ho capito, ma non sono, perché non ho avuto mancamento. Ah, perché... No, era così per dire, non prendermi troppo sul serio, dai. Lidia da Roma. Stacce, come dicono qua. Lidia. Buonasera. Vai. Senta, signor Parenzo, io e lei abbiamo già discusso sulle quote rosa. Ma allora... un uomo favorevole alle quote rosa come può approvare il fatto, no, non ci siamo capiti, che venga riservata una piscina per 3 giorni a delle donne? Allora, io non ritengo il burka una cosa di civile, ma ritengo che siccome noi siamo l'Occidente democratico e siamo civili, non è che tutto è concesso, e siccome allora loro hanno delle usanze che a noi non fanno male, ma cioè se loro accettano piscina, di avere, scusami, pagano piscina, le tasse in Italia, le pagano, ma qua che c'entra? Pagano le tasse e la pensione alla nonnina di Crugiani, possono fare una volta parlare a settimana il bagno un'ora in una piscina pubblica, sì, solo per loro. Aspetto, mi fa parlare? Sì. Parla l'idea, ecco, cara. Grazie. Parla. Allora, le volevo dire che non tutte pagano le tasse, perché mia mamma ha una badante straniera, extracomunitaria, che non paga tasse. Perché no, l'ha messa in regola lei? Sì, esatto. Brava. La domanda che viene da farle è chi farebbe la badante a sua madre se non ci fossero quelle che vengono da fuori, però. Ma che posso c'entra parlare, questo, ragazzi? Signora, con la piscina non c'entra niente, dai. No, signora, c'entra. Come no? C'entra. Ma non c'entra niente con la piscina. Lei di che partito è? Ma che c'entra il partito? Che domanda bizzarra. Ecco, allora, lei che è una donna, sì, io ritengo, se mi permettete di esprimere il mio pensiero, sì, che sì, queste, sì, signore poveracce, finché non avranno la libertà di decidere di andare in piscina, anche se ci sono altre scoperte. Ma uno ha il diritto di vestirsi, no, scoperte. In Italia si sta scoperti in piscina, non coperti. Ma che sciocchezza. Non coperti. Parenzo, Ciani, scusi, io, lei come sa, io faccio la fisioterapista al Donorino. No, non lo so veramente come lei sa. Giuseppe, anche questo è interessante da sapere. Posso parlare? Ma io non lo so che lei le fa la fisioterapista, scusi. Si Lidia apre tutto un fascicolo qui. No, Lidia, ma io da Roma, come lei sa. No, ma io non lo so che fa. Senti, detto lo spadente di Giuseppe, come lei sa. Ma non lo so. Massaggi. Ma non l'ho mai incontrata la signora Lidia. Non l'ho mai incontrata. Lo diceva sempre anche dell'Oto. Diceva, mai incontrata. Vabbè, allora... signora che doveva fare idroterapia perché aveva dei problemi, il marito le ha impedito di fare l'idroterapia perché sarebbe dovuta entrare in piscina probabilmente con altre persone. Certo. Quindi, se per voi questa è una cosa civile, va benissimo, allora avete ragione. Ma non stiamo discutendo. Basta, ha ragione Lidia, ma avete rotto le scatole, ha ragione Lidia. Ma che ti abbiamo rotto le scatole? Ha ragione Lidia, musica! Musica, Lidia. Ragazzi, non possiamo stare 8 ore sulla stessa cosa. Sentire cosa ha detto Rai News 24 a proposito di Grillo, vivisezione e Berlusconi. Tanto impazza in rete quanto ha detto Beppe Grillo ieri sera. La Zanzara ha detto che lui si augurerebbe la vivisezione per Dudu. Non avete idea che cosa sta succedendo? Ma che sta succedendo? A parte che lo sta succedendo una mazza, signora di Rai News 24. E poi non l'ha detto alla Zanzara? No. Non è mai venuto alla Zanzara? Non viene qui. Non viene. Dai, su, l'ha detto alla Zanzara. Abbiamo Dudu. Ma sì, vaffanculo te, Dudu non era rivolto a me, però... l'ha detto in un altro comizio, in un comizio, e poi noi l'abbiamo riportato. Comunque, vabbè, avrà sentito la Zanzara, la signorina di Rai News 24, della miseria. Berlusconi su dell'utri, dai, sentiamo. Comunque la prossima settimana rientrerà probabilmente in carcere. Ecco, è una cosa che non riesco a commentare, dico soltanto che sono smentiti tutti coloro che pensavano che dell'utri fosse andato là per evadere, per diventare un latitante, perché essendo persona molto intelligente mai più avrebbe scelto un paese che ha un trattato di estradizione con l'Italia per andare se avesse avuto in mente di sottrarsi alla giustizia italiana. Beh, il ragionamento non fa una grinza, diciamo, però ci sono anche i tentativi di rendersi latitanti, Berlusconi dovrebbe saperlo, uno ci prova e magari gli va male, no? Cioè ci prova, va in Libano, cerca un po' di, no? Però gli è andata male, potrebbe essere andata così, essere un paese oppure di passaggio quello per lui. Ma era andato quasi tutto bene, poi purtroppo però mettici Scaiola, mettici che li stanno scaricando tutti quanti e anche il governo libanese ha detto sai che c'è, ve lo ridiamo a questo punto, la politica non c'entra. Marcellone ma mio, Marcellone mio, Marcello, come here, Marcello. Marcellone mio, perché Marcellone mio? Mi rompo i coglioni. Lo so, ti rompi i coglioni, però era Santo Domingo quello. Io non la voglio in carcere, però. Io non la voglio in carcere dell'utri. Tu la vuoi in carcere, tu Veronica? Puoi raccogliere delle firme. Veronica, lo vuoi in carcere tu? Dì la verità, io voglio. Devi dirlo chiaramente. Veronica Gentili, attrice, sì, due punti, voglio qua. In carcere dell'utri. Voglio in carcere dell'utri. Che schifo, mamma mia. L'ho detto. Cala. L'ho detto. Cala, te credo, 7 anni, sono. 7 anni, mamma mia. Paolo da Verona, dai. Però guarda che, dimmi. Con tutta la stima per una mente del male, Cioè, ha tutta la mia stima dell'utri rispetto a Scaiola, che è molto più. Cioè, tu te la faresti una storia con un delinquente, diciamo. Ma questo cosa c'entra? Una storia con. Ti piacciono i delinquenti? Beh, ti piacciono? Se mi innamorassi di un delinquente. Ma lascia perdere l'amore. I delinquenti fighi, non i delinquenti sfigati. Chi era? Paolo Verona, dai. Dani, sì, dimmi. Sì, buonasera. Allora, in merito alle menzogne di Berlusconi sul complotto, cosa condivido quanto ha detto Ludwig. Il problema è che loro. Ludwig. Vabbè, è uguale, dai. Vabbè, quello che è. Sì, quello che è. Il problema ragione. È che loro tacciano sul fatto che di fronte allo spread a quello che stava succedendo sono stati inermi, incapaci, dei dilettanti dello sbaraglio. Ti do soltanto due numeri. Se ti ricordi, quell'anno lì dopo, settembre, hanno aumentato l'IVA. Hanno sempre detto che non avrebbero mai aumentato l'IVA. Ma chi? Mai assolutamente. Il governo Berlusconi. Poi? Nel 2011 l'IVA ordinaria era il 20%. Ce l'hanno buttata al 21% e la misura che dal 21 al 22 era sempre... proveniva sempre da un provvedimento del governo Berlusconi, poi Letta non è stato in grado di impedire l'aumento. Ma lo sapete, adesso non me ne frega niente di tornare su queste cose, lo sapete cosa è successo? Mi segnala l'amico non leggerlo, sapete cosa è successo al TG5 poco fa? No, hanno no. mandato in onda una specie di guida per le elezioni europee, no? Però hanno mandato una scheda con c'è scritto elezioni europee 2014, il simbolo di Forza Italia barrato, ti giuro, Forza Italia barrato, cognome, vota così, metti una X sul simbolo Forza Italia, dai. Ti giuro, al TG5, guarda, il mio amico non leggerlo, mitico, mi ha mandato questa cosa, scrivendo ma che telegiornale premuroso, non solo ci spiega come esprimere il nostro voto, ma anche su che simbolo porre la nostra preferenza, vota così, metti una X sul simbolo Forza Italia, dai, su. Un tragico errore. Ma quale tragico errore, è dai! Ma le provano tutte! Vabbè, ma sta pure tornando Marcello, dai, almeno questa parte. Quello però torna al gabbio, però. È per quello ti dico, no? Vabbè, ragazzi. Ogni tanto. Senti, ma una domanda te la posso fare? Sono giorni che mi chiedo. Vai. Però ma stiamo finendo, quanto ti piace Lady Matacena? No, pochissimo. Poi strano, non mi conosci. Mi piace più te. No, grazie. Dopo questo, forse. Mi piace più te di Matacena. T'ho fregato. Ciao, ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. È bella roba, è stata una bella figura.